471. Triglie alla Livornese. Fate un battutino con aglio, prezzemolo e un pezzo di sedano. Mettetelo al fuoco con olio a buona misura e quando l'aglio avrà preso colore, unitevi i pomodori a pezzi e condite con sale e pepe. Lasciate che i pomodori cuociano bene. Rimestateli spesso e passatene il sugo. In questo sugo collocate le triglie e cuocetele. Se sono piccole, non hanno bisogno d'essere voltate. E se il vaso dove hanno bollito distese non è abbastanza decente, prendetele su a una per non romperle e collocatele in un vassoio. Poco prima di levarle dal fuoco, fioritele leggermente di prezzemolo tritato. La pesca di questo pesce è più facile e più produttiva di giorno che di notte e la sua stagione, quando cioè è più grasso, è, come si disse, il settembre e l'ottobre.